Matteo, capitolo 7. Non giudicate a ciò che non siate giudicati, perché col giudizio col quale giudicate sarete giudicati, e con la misura onde misurate sarà misurato a voi. E perché guardi tu il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? Ovvero, come potrai tu dire al tuo fratello, lascia che io ti tragga dall'occhio il bruscolo, mentre ecco la trave nell'occhio tuo? Ipocrita, trai prima dall'occhio tuo la trave, e allora ci vedrai bene per trarre il bruscolo dall'occhio del tuo fratello. Non date ciò che è santo ai cani, e non gettate le vostre perle dinanzi ai porci, che talora non le pestino coi piedi, e rivolti contro a voi non vi sbranino. Chiedete, e vi sarà dato. Cercate, e troverete. Picchiate, e vi sarà aperto. Poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi picchia. E qual è l'uomo fra voi, il quale se il figliuolo gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure, se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dar buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà egli cose buone a coloro che gliele domandano? Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge ed i profeti. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti son quelli che entran per essa. Stretta invece la porta ed angusta la via che mena alla vita, e pochi son quelli che la trovano. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste da pecore, ma dentro son lupi rapaci. Voi li riconoscerete da loro frutti. Si colgono forse delle uve dalle spine, o dei fichi dai triboli? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può far frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi li riconoscerete dunque da loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, noi abbiamo profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatte in nome tuo molte opere potenti. Allora dichiarerò loro, io non vi conobbi mai, dipartitivi da me, voi tutti operatori di iniquità. Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha edificata la sua casa sopra la roccia, e la pioggia è caduta, e son venuti i torrenti, e i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma ella non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ode queste mie parole e non le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo stolto che ha edificata la casa sulla rena, e la pioggia è caduta, e son venuti i torrenti, e i venti hanno soffiato ed hanno fatto impeto contro questa casa, ed ella è caduta, e la sua rovina è stata grande. Ed avvenne che quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le turbe stupivano del suo insegnamento, perché egli le ammaestrava come avendo autorità e non come i loro scribi.